בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Buonasera a tutti, benvenuti nelle nostre frequenze, questa è Blu Radio Veneto e siete all'interno di Blu Time Live. Io sono Flavio Bilato e con me c'è Maurizio Calzavara. Buonasera Maurizio. Buonasera Flavio, buonasera ai nostri ascoltatori. Allora, anche in questa serata abbiamo ospiti che arrivano a trovarci facendo un bel po' di chilometri, però tengono sempre ben in evidenza quello che è il tema principale della nostra trasmissione, ovvero la musica live. E per questo diamo il benvenuto direttamente da Fano a Marco Sanchioni. Buonasera Marco. Ciao, buonasera Flavio, buonasera a tutti, buonasera agli ascoltatori di Radio Blu Veneto. Ecco qua, allora Marco, sappiamo non sei solo, quindi già dal principio presentiamo anche quello che prima hai definito un grande chitarrista. Grande session man, sì. Lui è Simone Cardinetti, da Fano anche lui. Ciao a tutti. Ciao Simone, ecco. Ciao. Allora, ciao Marco. Durante questa trasmissione parleremo del nuovo lavoro di Marco Sanchioni, si intitola 10 anni dopo, ma cominciamo subito con una domanda. Com'è la musica a Fano? Come la musica fa, ma insomma no, c'è un bel fermento, insomma, ci sono tanta gente che suona, poi ecco la difficoltà è forse suonare, avere l'opportunità di farlo, non ci sono tanti locali che danno questa opportunità, ecco, diciamo che insomma c'è gente che ha voglia di mettersi in gioco, c'è gente che ha voglia di scrivere canzoni e di fare anche musica propria, oltre che cover, e quindi direi che insomma, come dire, la situazione giusta, le persone giuste ci sono, non c'è la situazione giusta per dare visibilità a tanti musicisti, ma questa è una cosa insomma abbastanza vecchia come storia, quindi non c'è nulla da stupirsi se vuoi, però ecco, so che tanta gente ha voglia di avere visibilità, di mettersi in evidenza ed è sempre positivo comunque. Tu hai sempre avuto voglia di metterti in evidenza, di far musica, visto che avevi una band. Sì, avevo una band negli anni, fino agli 80, primi anni 90, io tanti anni che suono, insomma, sono abbastanza... Quindi hai calcato un sacco di volte il palcoscenico? Abbastanza, sì, certo, diciamo di sì, ho suonato con gli Number Two verso la fine degli anni 80, con cui ho fatto anche un mini album, uscito nel 90, chiamato It Rains Again on the Rising Sun, per un'etichetta di Roma chiamata High Rise e capitanata da Federico Guglielmi del Mucchio Selvaggio, e successivamente poi ho intrapreso un mio percorso personale da solista, ho prodotto dei demo tape, ho sempre scritto canzoni sostanzialmente, ho fatto spesso concerti, chitarra e voce, e il mio primo album risale al 2002, che è Mite, e il secondo album l'ho fatto solamente quest'anno, 10 anni dopo appunto il titolo del nuovo CD. In questi 10 anni non ho smesso di scrivere canzoni, poi ecco, la vita non è che ti porta sempre, no? Certo. le cose che vuoi, ma come dire, l'unica cosa che non mi si poteva portare via era proprio la voglia di scrivere canzoni, e questa è stata una costante comunque in questi 10 anni, e ecco che il risultato non poteva che essere questo album, dove ho scelto delle canzoni, alcune le ho dovute scartare per questioni di spazio, ma anche perché comunque non potevo mettere 20 canzoni in un album. Sarebbe stato quasi un doppio, esatto. Quindi non era il caso. Ne ho scelte 13, sì. Perché insomma, mi andava di comunque stare abbastanza ampio. Ultimamente mi sembra che gli album solitamente viaggiano sempre fra 10, 8 canzoni, 11 canzoni. Io ho un po' sforato, ho dato 13 canzoni. E comunque sia, il prossimo lavoro non sarà comunque, come dire, meno numeroso, credo, perché di brani nuovi ne ho altri, quindi. Ma comunque sì. Sia sei un rocchettaro in ogni caso. Assolutamente un rocchettaro, cioè. Ma abbiamo un'ora e mezza da passare insieme, non tiriamo fuori tutti gli argomenti subito, ci saranno delle belle chicche da estendere all'interno della trasmissione. Prima facciamo ascoltare i nostri ascoltatori di che musica stiamo parlando, quella di Marco Sanchioni. 10 anni dopo si intitola il suo ultimo lavoro e andiamo ad ascoltarci L'idea di te e poi torniamo qui in diretta a commentarla insieme. Ok. Blu Time. Blue Time. Blue Time. Senza di te, meglio da soli senza di te, amaro calice per me, io lo trasformo in olio di mandorle, e quello che mi manca di te è un'idea che non ti corrisponde, quello che mi manca di te è un'idea che oscura mi confonde. Peggio difetto, ma chi lo sa, verificare ciò che non va, diabolica curiosità, incasinarsi la vita è un'arte, sai, e quello che mi manca di te è un'idea che non ti corrisponde, quello che mi manca di te è un'idea che oscura mi confonde, tu sei l'amore inverso nella mia idea, ma non ti corrisponde, e tu un po' troia, un po' bambina, un po' dea, sei nata per confondere. Tua cortesia che sa tradirmi, ma cuore resterà, meglio da soli senza di te, che male accompagnati con te, nevrotica poi fragile, tu schizofrenica folle poi martire, e quello che mi manca di te è un'idea che non ti corrisponde, quello che mi manca di te è un'idea che oscura mi confonde, tu sei l'amore inverso nella mia idea, ma non ti corrisponde, e tu un po' troia, un po' bambina, un po' dea, sei nata per confondere. Blu Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E ci siamo ascoltati all'interno della programmazione Blue Time Live, questa prima canzone da disco di Marco Sanchioni, l'album si intitola 10 anni dopo, la canzone L'idea di te, che parla di una delusione d'amore alla base di tutto, poi ancora una presa in giro, e rimettendo l'anima a posto si cerca di farsi un'idea su quel che è stato e su quello che è stata la persona. Questa è un po' la prosa di quella che è la poesia contenuta, sì, nella musica di Marco Sanchioni. Ci può stare anche perché, sì, beh, la canzone è stata sostanzialmente scritta perché spesso e volentieri ci innamoriamo di un'idea della persona e mai della persona per quello che realmente è, e questo non fa bene all'anima di nessuno, nel senso che ci facciamo un'idea di quella persona e ci innamoriamo di quell'idea e non della persona per quello che è, e magari non riusciamo ad amare la persona per quello che è, ma anche perché è impossibile, non è che dipende sempre da noi, no? Quindi ci si innamora e ci sta insieme a un'idea e poi si viene lasciati dalla persona. Sì, beh, o magari a un sì, certo punto ci si sveglia e si vede la persona per quello che è, certo, e l'idea che avevamo in realtà viene completamente, come dire, stravolta e crolla di fronte alla realtà. Non crolla, per i tre accordi finali di chitarra sono molto positivi, secondo sì, me. Esatto. Hanno un che, giusto, un che, certo, non da poco al pezzo. A sì, proposito, sì, cari ascoltatori, a microfono spento, parlavamo di certi nostri miti. Sì, quindi, certo, insomma, esatto. Esattamente. Yeah. E quindi quali sono i vostri miti? Cioè lui parlava di Yascar Du, quindi Bob Dool. Bob Dool ha fatto un disco nuovo di grande valore, di grande rinascita, è ritornato come una volta. Non è fisicamente, non è come una volta, ma come testa è sicuramente come una volta. Ma l'ho visto suonare al David Letterman e devo dire che ha un'energia che è incredibile, incredibile. Che è pari a quella che ho visto io nell'87. Lui ha visto a Correggio un grande a Novellara, un grande concerto della band di Bob Dool. Posso dirvi la data precisa e anche l'ora, cioè ecco, perfetto. È rimasta stampata. Assolutamente, ero completamente assorbito da Warehouse Songs and Stories degli Yascar Du, lo fecero quasi tutto, tutto il primo volume e un paio di brani del secondo volume, no? Se erano un disco doppio, certo. Più alcuni pezzi vecchi, grande serata, grande concerto. Gli Yascar Du è sempre stata una band di culto, ma proprio in tutti i sensi, veramente. Eccezionale. Ha proprio aperto tante strade per tanta altra gente, assolutamente. Ben più famoso di loro. Appunto. Siamo ne abbiamo parlato prima. Sì, esatto. Si chiamano i Green Day, si chiamano. Ecco, ad esempio. Anche in Nirvana, ma in realtà. Ma beh, in Nirvana. Ce li siamo vissuti in un altro modo. È già diverso. Il buon Kurt, insomma. Esattamente. È stata un'altra cosa. Abbiamo parlato di gente che fa musica dura, però diciamo hai avuto anche un passato con qualcuno, una band che suonava musica irlandese. Sì, beh, irlandese, diciamo che è stato un bel giochetto sta storia della musica irlandese, si chiamavano gli Ossi, questa Ossi. Band, ma la storia è abbastanza contorta, nel senso gli Ossi nasce dal nome Billy's Bones. Allora tutti i ragazzi dicevano andiamo a vedere gli Ossi, appunto i Bones, gli Ossi, e lì è rimasto gli Ossi dopo. Diciamo che sì, insomma, irlandese fino a un certo punto, c'era un approccio sicuramente molto folk irlandese appunto, ma poi alla fine quello che facevamo era altro, oltre ai brani di nostra composizione, di composizione del cantante, c'erano brani come The Violent Femme, mica tanto folk, proprio l'opposto del folk. Violent Femme, cosa rifacevamo? Forse qualcosa di Young anche facevamo, adesso non ricordo. Quello comunque, più elettrico, quello più elettrico. Rocking the Free World, però la rifacevamo comunque in versione acustica. Siete stati bravi, in acustica, quindi... siete visite limitate. Esatto, perché ecco, poi era una formazione un po' particolare. Io stavo ad una percussione e c'era il chitarrista mandolinista che stava alla gran cassa, quindi c'eravamo divisi anche la sezione ritmica per sviluppare e arrangiare i brani. Comunque è stata una bella esperienza e c'è anche una parte acustica dentro di me, oltre ad essere un rockettaro. La gran cassa suonata dal chitarrista che ultimamente va di moda anche con i Mumford & Son. Ah, questo non lo sapevo. È una cosa che mi sfugge, vedi, l'abbiamo lanciata noi come gli Ossi, come Ossi. Però non siete arrivati in testa alle classifiche americane, poco da fare. Questo no. Cosa che invece i Mumford sono hanno fatto. A fare. Esatto. Ecco, quindi un invito alla scalata. E allora, abbiamo parlato di musica acustica, Marco Sanchioni è venuto a presentarci il suo 10 anni dopo in compagnia del suo amico chitarrista Simone Cardinetti e quindi adesso cosa ci fate ascoltare, Marco? Dunque, un estratto dall'album 10 anni dopo, e di fatto il primo singolo estratto, quello che un po' ha girato un po' le radio, eccetera. La canzone si intitola Ridi pure di me e la facciamo in acustico io e Simone. Buon ascolto. Bene, grazie. Ok. 1, 2, 3. Ridi pure di me. Sono errori del passato, è il modo migliore, sai, per giustificare i tuoi. Ridi pure di me, stupido e coglione, le mie mancanze sono le tue. È come se ridessi anche un po' di te. Vendetta solita, vendetta solita, vendetta solita, vendetta solita, vendetta solita. tanti hanno già riso di te. Dentro sei nel gioco, cuore della noia, a volte vittime, a volte boia. Ridi pure di me, ridi pure di me, nel sorriso che sentenzia i miei errori ed il mio ruolo, la mia caduta ed il mio volo. Resto solo con me stesso. Come volevo ed ho giocato come volevo. Credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà. Credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, ridi pure me, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, ridi pure me, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, ridi pure di me, credo nella mia realtà, credo nella mia realtà, ridi pure di me, ridi pure. Ridi pure di me, ridi pure di me, ridi pure di me. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Abbiamo ascoltato Marco Sanchioni accompagnato da Simone Cardinetti insieme con due chitarre per questa Ridi pure di me, che è una storia che parla di errori del passato che sempre si pagano con una derisione magari anche da chi fino all'altro giorno era stato a spalla, no? Per combattere forse insieme a te. Però c'è un grido che fa parte del testo, sì. Che nel disco dà ancora più tensione. Tu dici vendetta solita, vendetta solita. Solita. Perché questo urlo di... Vendetta solita, ma è così... È... L'ho visto come un modo per vedere, per interpretare la derisione come una vendetta a volte, no? Cioè quando vedi un po' questi sorrisi o questi sguardi così abbastanza appunto sorridenti, non lo so, come l'ho voluto interpretare come una vendetta, non la mia vendetta, ma quella di coloro che in quel momento di... tua difficoltà hanno questo modo un po' di deriderti, che però nella canzone in generale dico ok, fallo, non c'è nessun problema. Questa canzone era del 2002, esatto. E quindi come l'hai risentita 10 anni dopo? Dunque è una canzone, voglio ricordare una cosa, nel libretto dell'album ogni canzone ha una data e ho voluto mettere questa cosa proprio per dare un senso di continuità a tutta la scaletta del CD. E quindi ecco, Ridi pure di me è del 2002. Dopo 10 anni mi sono accorto che ancora, insomma, questa canzone comunque vibrava dentro, e quindi l'ho tenuta, oltre ad un fatto, diciamo, pure testuale, ma anche musicalmente la amo tanto. E devo dire che è una di quelle canzoni che a fine lavoro, mentre proprio la stavo mixando in studio con il co-produttore artistico, che voglio ricordarlo, è Alessandro Castriota, che ha dato comunque un suo contributo, ingegnere del suono, colui che ha fatto i missaggi assieme a me, e ha dato un grande contributo complessivo all'album. Questo brano in particolare, insomma, ci siamo trovati una volta finito a definirlo in due insieme, una delle cose migliori dell'album, tanto che l'ho voluta mettere come singolo trainante del disco. Ed è una canzone, Flavio, no? Mi chiedevi, sì. Dopo 10 anni mi vibra ancora sotto ogni punto di vista, e quindi anche questo urlo vendetta solita, che poi nell'album l'ho voluto citofonare, per renderlo proprio ancora più rabbioso. O citofono o megafono. Era un megafono, che ha detto citofonare, ma in realtà era un megafono giocattolo, ecco. che mi è rimasto in casa di un amico mio che è uno che recita, fa delle cose, e quindi lo usa un po' per queste cose qui. Io me lo sono preso e l'ho utilizzato anche per fare non solo questa registrazione, anche in altri casi del CD ho utilizzato questo piccolo megafono, e qui ci stava bene, secondo me. E ci sta bene anche l'introduzione, l'intermezzo sonoro di Simone, tu hai citato Simone, un grande critico, si è visto quando lui ha arpeggiato, ha dato l'arpeggio tra il tuo cantato e un momento di pausa. A proposito, un critico ha scritto 10 years after, 10 anni dopo, c'è qualche collegamento con quella band inglese? Nessun collegamento, perché un critico mi piacerebbe pensare. No, ma è interessante come collegamento, però non era... Loro fanno del rock blues, anche se appunto Blues non è che non lo ami te. No, io non sono un bluesman, no, diciamo, però insomma non lo disdegno. Ci sono... i Led Zeppelin hanno fatto blues rock, certo, in alcuni casi ci sono anche un paio di brani dove un po' di blues suona anche nei Beatles, che sono... chiaro. Quindi i due brani che ricordo io sono Oh Darling e Year Blues, sull'album bianco, prima su Abbey Road e l'album bianco. White Album per me è il miglior disco che hanno fatto. In assoluto per te. Per me. Per ma te. Poi c'è, anche su Facebook ci sono dibattiti in cui ci lanciamo petardi, perché c'è gente che no, Abbey Road, no, è Sgt. Pepper, no, per me è l'album bianco. L'album bianco, la summa, secondo me. La summa, insomma, è sempre molto antologico, c'è di tutto, dalla sperimentazione, eccetera. Questi 10 anni dopo non sono collegati al gruppo inglese, però è bello, è bello pensare, è bello avvicinarsi. Sognate così, va benissimo, certo. Bene, ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa trasmissione è possibile seguirla sia tramite le nostre frequenze tradizionali, per chi è con l'autoradio, sia tramite le nostre, diciamo, streaming audio su internet, quindi all'indirizzo bluradioveneto.it, cliccando nella pagina riservata a Marco Sanchioni c'è la possibilità, naturalmente, ora di ascoltare la diretta e più avanti anche di scaricare il podcast all'interno dei nostri archivi sonori. Poi ricordiamo ancora che durante questa serata saranno scattate alcune foto, anch'esse saranno disponibili nel breve all'interno del nostro sito internet. Allora ci ascoltiamo un altro pezzo da disco di Marco Sanchioni, da questo 10 anni dopo. Andiamo ad ascoltarci Dani sulla Luna e poi torniamo qui in diretta a Blu Radio Veneto. Thank you. soffio di vento che l'ha spinta sino in cielo senza nessun rimpianto. Tranquillamente a fondo, da lì alla fine del mondo, ma si sta levando la luna su nel cielo e presto nel tempo suo lo spinterà. Daniela sua Londra d'incanto, densa di musica e colori, tanti amici, un amore, un giorno, un mese, un anno senza dolori. Daniela sua Londra da maledire, sente solo il bisogno di fuggire, in quel deserto lunare tra crateri silenti mille. Cosa per non ferirti, tu di passione, di fragilità, impresse nei tuoi occhi, nel tempo e nei rintocchi. Chiedere aiuto, ma al buio di quel minuto ti ha spento senza comprendere un senso, una vita per te. Sei volata via da una camera d'albergo, presa al volo da due angeli, proprio lì di passaggio. Resta il tuo profumo attorno e sarai l'eroe per un giorno, mentre stai correndo sopra la tua luna adesso incontri la tua libertà. Radio Veneto. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. sempre Blu Radio Veneto, sempre Blu Time Live, assieme a Flavio Vilato e Maurizio Calzavara. Ci siamo ascoltati questo bel pezzo di Marco Sanchioni, il suo ultimo lavoro si intitola 10 anni dopo, lo stiamo ripercorrendo insieme e ascoltando anche queste belle melodie, una melodia in particolare quella di Dani sulla Duna, che invece racchiude una storia triste, una triste fine di Dani e la volontà di Dani appunto di farla finita, ed è solo un rimorso per chi c'è stato vicino di non riuscire ad averla fermata per tempo. Magari bastava anche solo una parola, però poi rimane dentro sempre un gusto amaro. Non è facile per me parlare di questa canzone. Devo dire che questa canzone, più che a questa persona, alla memoria di questa persona, l'ho voluta poi dedicare anche a tutti coloro che comunque in qualche modo si sorreggono un po', si portano addosso il peso dell'esistenza, il peso del mondo, perché tante sono le persone sensibili che secondo me assorbono un po' il peso del mondo e i problemi del mondo così, in maniera molto spontanea, senza sapere neanche perché. Questa condizione li porta a fasi depressive spesso patologiche. E questa canzone, ecco, vuole un po' raccontare queste situazioni che sono molto molto diffuse nel mondo, credo, ma noi, ecco, con la nostra corsa, con la nostra vita frenetica, non ci accorgiamo di queste persone. Certo. Adesso, mi viene in mente una foto. Tu, Maurizio, lo conoscerai, Nick Drake. Se non lo conosco. Nick Drake è un idolo, ecco, un idolo per tante generazioni. Nella foto del retrocopertina di Brighton Lighter lo si vede appoggiato ad un guardrail con le macchine che passano, ecco. Sì. Lui, che aveva una sensibilità, secondo me, che superava il buco dell'ozono e oltre. Sì, sì. Ecco, credo che non ci sia stato solamente lui come Nick Drake a livello di sensibilità, lui unico musicista e unico cantautore, ma ecco, credo che le persone del mondo così siano tante, ma non ce ne accorgiamo, e se c'è una vera malattia da curare, e non c'è bisogno di nessun medico, secondo me è proprio la depressione. Però musicalmente non è un pezzo malinconico, è abbastanza, no, abbastanza solare, tra virgolette, in alcuni momenti. Beh, diciamo anche se al finale ci sono gli archi e dà un certo senso alle cose. Beh, un velo di malinconia credo che in realtà ci sia in tutta la canzone, ma c'è un... Questi coretti, questi, sì, cori, certo, questi, da un che di solare, di abbastanza west costiano, abbastanza americano. Dai, bene, ecco, mi viene in mente, non so perché, quell'immagine che, se non ricordo male, riportava nel testo di una canzone di Husker Du, Grant Hart, su Pink Turns to Blue, cioè che ella parla di una donna che viene presa da degli angeli e portata in cielo. E la stessa cosa ho voluto evocare in questa canzone. E, sì, in effetti poi c'è una positività. Sì, appunto. In fondo dico una cosa forse forte, ma forse la morte è un grande gesto della vita e fa parte della vita stessa, quindi credo che tutto sommato la vita venga celebrata in questa canzone, nonostante tutto. Assolutamente sì. Marco, un po' più allegri adesso dopo, certo, dopo questa pausa, che comunque vale, assolutamente vale. Tu sei stato speaker in una radio libera. Sì, più di una radio libera, almeno tre. Quindi a fine anni '80 ero Radio Punto a Pesaro, poi sono andato avanti 4-5 anni e sono ritornato a fare radio nel 2003 a Radio Fano e successivamente a Radio Esmeralda, sempre una radio di Fano. E dopodiché ho lasciato perdere, ho preferito così, magari a livello musicale, dedicarmi alle mie canzoni, alla mia musica. Certo. Esistono ancora le radio libere o sono diventate tutte brutalmente commerciali? Ma questo non lo so. Io credo che radio che ancora, come dire, hanno una certa indipendenza ci siano ancora, penso di sì. Non so fare nomi sinceramente, ma credo di sì. Non posso dirlo con certezza, ma insomma... Se ci sono radio che ancora mandano in giro musica indipendente come la mia, probabilmente no, esistono degli spazi, no? Ancora. Certo. No, devono esistere. Devono esistere, devono. Altrimenti... Qui dentro lo spazio esiste, assolutamente. Certo, certo. Noi abbiamo 35 anni di onorato servizio, certo. Quindi insomma è una cosa che serve, che consta, che pesa, sì. Senso positivo del termine, chiaramente. Sì. Quindi siamo radio libera, certo. In tutti i sensi, tutti diceva i sensi. Ben Finardi, certo. All'inizio, quindi. Assolutamente, certo, così. La radio di Finardi. Certo. Sì, la radio di Finardi e la radio libera, certo. Per antonomasia. Gloria a Finardi, mi sento di dire. Allora, sì, certo. Sempre con Blu Radio Veneto, Blu Time Live, questa volta una canzone che adesso la suoniamo, sì. E poi diremo agli ascoltatori che canzone... Ah, quindi non la presentiamo? La presentiamo dopo. Ok, vediamo se gli ascoltatori sono attenti e sanno qual è la canzone che stiamo facendo ascoltare ora. Ok, vai Simo, vai. Sexy Sadie, what have you done? You made a fool on everyone. You made a fool. Sadie, you broke the rules, you laid it down for heart to see. You laid it down for heart to see. Sexy Sadie, oh, you broke the rules, but someday the world is waiting for the lover. Sadie, she's the lady and the greatest of them all. But did you know the world is waiting just for you? The world is waiting just for you. Sexy Sadie, oh, how did you know? Sexy Sadie, you get your jet. How, how, how, how. I never be to think you how, how, how. Sexy Sadie, oh, you get your jet, you get everything on just the same on the table. Just as what relights and everything. Sexy Sadie, she's the latest and the greatest of the whole. Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Diciamo che non l'abbiamo presentato perché forse non c'era bisogno di presentazioni. Beh, però un pezzo, anche se non è un pezzo semplice, abbastanza conosciuto, vai Flavio. Ma prima avevamo detto White Album è l'album un po' prog, un po' pop, un po' rock, un po' sperimentale, un po' sì. Beatles, sì. Un po' Beatles come avrebbero dovuto essere nel corso degli anni a venire, se non che poi naturalmente storie di sentimenti o non so, o di chitarre spaccate forse non, sì, hanno, sì. Non hanno fatto continuare la carriera ai Beatles. Forse è stato un bene, perché secondo me, ma anche ho capito secondo voi, White Album è l'album il magnifico, diciamo, in questo anche caso. Anche se non mette tutti d'accordo sotto questo punto di vista, perché tanta gente in realtà vede il White Album come un disco raffazzonato, qualcuno dice, sì, raffazzonato, non nel senso negativo, nel senso che tutte le cose messe assieme, perché c'era poco tempo, esatto, e il tempo era scaduto. Esatto. E quindi mette assieme tante cose, un calderone di roba che... probabilmente, a detta anche di George Martin, poteva... L'ha detto lui, quindi. Se l'ha detto lui, quindi magari c'è ragione. In realtà avrebbe, come dire, composto un disco, un buon disco singolo, invece che doppio, con 30 canzoni. Cioè, quindi selezionando bene i brani. E quindi molti, che ne so, puntano come disco migliore a Sgt. Pepper, chi ha Abbey Road, chi ha Revolver... Io il White Album ce l'ho praticamente distrutto a casa, perché sì, l'ho comprato un sacco di volte. L'avrei dovuto ricomprare in vinile, l'ho preso in CD, ma il vinile è un'altra cosa. Mi sto ricomprando i vinili ultimamente, anche di altre cose nuove, anche dei Radiohead, quindi sai com'è. Abbiamo ascoltato questa Sexy Sadie, ma cosa è successo nell'agosto del 2012 in quel di Fano? Hai partecipato? Ah sì, dunque il primo agosto 2012 abbiamo fatto un anno organizzato e ho partecipato anch'io a questa questo raduno di musicisti fanesi, pesaresi, così, che rievocavano e ricordavano l'uscita del primo singolo dei Beatles nel 62, dopo 50 anni. Io ho duettato assieme a un altro cantante fanese, Stefano Fucili, alcuni brani, e ho fatto da solo, chitarra e voce, questa Sexy Sadie, un brano che ho sempre, per quel che mi riguarda, nella mia top 5 dei Beatles, lo amo. E ricordiamo ai nostri ascoltatori che i pezzi dei Beatles non sono facili da fare, sono molto complessi. E Simone faceva il George Harrison nella situazione, bisogna dirlo questo. L'ho sempre detto che... Ci provavo. Ha fatto benissimo. Poi la grinta di Marco, voi ascoltatori non avete visto la grinta di Marco quando si impossessava proprio del pezzo, come fosse suo. Ipoteticamente poteva essere tuo. In un altro mondo, in un'altra vita. È un po' difficile, io sono stato in India come John, perché John questo l'ha composto in India, certo. Ma insomma aveva un'ispirazione e un'ambientazione per avere quell'ispirazione lì tutta sua, quindi ecco. In 10 anni in cui hai colto pezzo dopo pezzo, tessera dopo tessera, per costruire poi questo, sì, questo CD, hai cambiato molte location, molti punti d'ascolto, sì, e di registrazione. Dunque, infatti le location le riporto sul CD e sono un buon numero, 5-6 credo, adesso ho perso anch'io il conto. E, fra cui dunque lo studio di Castriota, dove ho appunto fatto le prime batterie. Ho impiegato molto tempo per fare tutte le registrazioni, perché le prime batterie registrate risalgono al 2006, quindi si parla di almeno 5 anni fa rispetto alla chiusura finale appunto del master, che risale al 2011, poi nel 2012 l'ho pubblicato. E poi abbiamo, che ne so, casa mia, anche casa dei miei, perché avendo un computer dove avevo una buona scheda audio, ho fatto anche delle riprese per conto mio. E poi altri studi sempre della zona, ricordo lo studio di Nicola Guadagno, lo voglio appunto citare, perché anche lui ha insomma contribuito per molte riprese. Ricordo casa di un musicista che partecipa anche alle session, che è Manu Magnini, che suona nei Versailles, un duo, come dire, un po' più o meno ispirato, se vogliamo, ma neanche troppo. Sicuramente più punk, i White Stripes, batteria e chitarra, ma molto più rock, e, insomma, molto più punk, molto più grunge, se vuoi, e che fa tanti noise in questo album. E, anzi, il prossimo brano che ascolteremo presenterà anche i suoi noise, soprattutto nel finale, che saranno un crescendo tipo... Ecco, per questo finale, ad esempio, di questa canzone prossima che ascolteremo, mi sono voluto proprio ispirare a un brano dei Beatles, che è I Want You See So Heavy, dove c'è questo crescendo, no, di caos, di chiasso, che poi va a coprire tutto il finale stesso del brano, e, insomma, gran pezzo quello, e niente, l'ho voluto inserire questa idea in questa canzone qui. Benissimo, allora ce l'ascoltiamo, questa canzone qui si intitola Quasi Amore, lui è Marco Sanchioni, il suo nuovo lavoro si intitola Dopo 10 anni. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. E se ti amo è come sfiorarti con un dito in alto, ma senza agguantarti mai. E se ti amo è come sfiorarti con un dito in alto, ma senza accarezzarti mai. Dito in alto, ma senza accarezzarti mai. Non voglio ali per farmi arrivare a te, mi basta un salto ma so già non è per me. Mi hai detto esci dalla vita mia, ne sono uscito, ma forse un piede è ancora lì con te. È quasi amore per me, forse quasi amore per te, forse grigio, buio più totale. È un caos frenetico, è l'unica armonia. Meglio il silenzio, sai, meglio fuggire via. Ricordo ancora le tue mani sopra la mia pelle squame, già trattata con il tuo sudore. Le nostre contorsioni pronte ad esplorare dentro un cuore, un'anima, due corpi stretti fusi assieme. Un po' animali e la dolcezza fra di noi, un paradiso nell'inferno senza dei. Lo fisso nella mente il tuo stupore, nei tuoi occhi, quando ero dentro te. Penso a te con gli occhi gonfi di lacrime notturne stanche. Non ho più voglia di sognare, vorrei essere amato e amare. Il paradosso è che anche per te è uguale. Ci siamo trovati e persi, poi somiglianti, poi diversi, ma senza compensarci mai. Io voglio lei che non c'è, forse vuoi lui che è lì con te, non vuole e non chiede amore. Tu non mi amavi ma poi ti stringevi a me, ma allora dimmi che cos'ero io per te. Vuoto senza te, è stato meglio, sai, lo è stato anche per te. Mio quasi amore dai capelli blu di color legno, addio per sempre, non ti vedrò più. Addio per sempre, non ti vedrò più. Addio per sempre, non ti vedrò più. E se ti amo è come sfiorarti con un dito in alto, ma senza agguantarti mai. E senza carezzarti mai. E se ti amo è come sfiorarti con un dito in alto, senza agguantarti mai. E se ti amo è come sfiorarti con un dito in alto, ma senza carezzarti mai. E se ti amo è come sfiorarti con un dito in alto, ma senza agguantarti mai. E se ti amo è come sfiorarti con un dito in alto, ma senza carezzarci mai. E se ti amo come sfiorarmi con un dito in alto, senza agguantarti mai. E se ti amo come sfiorarmi con un dito in alto, senza carezzarti mai. E se ti amo come sfiorarmi con un dito in alto, senza agguantarti mai. E se ti amo come sfiorarti con un dito in alto, ma senza carezzarti Blue Time. Live. Ecco qua, un brano tutto da spiegare questo per Marco Sanchioni, che è qui all'interno dei nostri studi per presentare il suo nuovo disco. Si intitola 10 anni dopo e la canzone ci siamo ascoltati, Quasi Amore, parla di una storia finita. Sì, beh, una storia che così ha avuto un triste epilogo e che sostanzialmente non si è mai compiuta completamente. Sono quelle storie che rimangono un po' in bilico, si vivono ma non in maniera, come dire, serena e certo, completa. Tu dici in un certo senso la persona occupa ancora un posto, in realtà tu dici un piede dentro la propria esistenza. Quando tu sei prossimo ad aver lasciato una persona, ancora un piede ce lo lasci dentro quella storia e dentro la sua vita, nonostante tutto. Quindi Quasi Amore questo è, proprio perché non si è compiuto questo amore, in questo brano l'ho voluto intitolare Quasi Amore, appunto, ecco. E qualcuno ha scritto che Marco sa fare anche lo psichedelico qua. Assolutamente. Sì, beh, è una cosa positiva, assolutamente. Assolutamente, beh, io e poi il finale, abbiamo citato il tuo compagno d'avventura in quel pezzo, abbiamo citato il finale, sai. Aspetta, di cosa stavamo parlando? Stavamo parlando di certi effetti. Sì, certo. Il noise. Esatto. Noise. Giudale, quindi, è alla fine, il Manu Magnini che alla fine mi fa due chitarroni, una a destra e una a sinistra, che sono un bel chiasso che si intreccia fortemente, certo, con questo. Certo, assolutamente, certo. Sicuramente. Allora, quando ho ascoltato per la prima volta questa canzone Quasi Amore e ho ascoltato anche le altre tue canzoni, quelle precedenti, mi è tornato in mente il tuo disco Mite, un disco di qualche tempo fa, dove c'era questo pezzo che non era per niente Mite, ovvero sembrava Mite all'inizio, poi c'era tutta una venatura che portava verso l'heavy metal, si può dire. Sì, verso il punk metal, se vuoi, sì. E diciamo che ho creato questo contrasto, fra il testo che parla di mite, di voler essere mite, e invece un tappeto musicale sonoro che in realtà mite non è. Quindi era così, semplicemente creare a quel testo, dare a quel testo un tappeto sonoro, un'ambientazione che contrastava completamente con il testo in sé. Ed era questo. Qui più o meno su Quasi Amore ho fatto, se vogliamo, la stessa operazione, ma con un testo differente, che non parla di una storia d'amore finita, ma che in effetti poi nel finale soprattutto crea la stessa ambientazione, lo stesso effetto, se vogliamo, visto e considerato che nel finale di questa canzone, come sulla canzone Mite, urlo in maniera sconsiderata da questo megafono che ritorna anche qui, certo. Come nel brano precedente. Ed è da consigliare agli ascoltatori andare a vedersi anche il video di Mite su YouTube, sì. per sentire questa grande carica esplosiva appena enunciata. Mm-hmm. Tra altre cose ti arrivano i saluti da Vannuccio Zanella e da Gino l'ascoltautore. Grazie, saluto di cuore entrambi, sia Vannuccio che Gino. Ciao, grazie. Bene, allora, tu non sei sempre stato Marco Sanchioni, c'è stato in un periodo molto recente, sì. Ma piccolo nel tempo, dove portavi un altro nome. Manchild. Sì, sì, come mai questo Manchild? Questo Manchild nasce innanzitutto dal voler chiudere con il passato, avevo questo bisogno. Ci ho pensato un po' di anni, poi nel 2009 ho preso questa decisione, Manchild, tanto che ho fatto anche il sito poi in quell'occasione, chiamato manchild.it, diventato poi adesso, ritornato, marcosanchioni.it con il nome mio d'origine. Era semplicemente un'esigenza di chiudere col passato e darmi un nuovo corso e una nuova, una nuova veste, diciamo. Ma poi ho capito che in realtà la musica che facevo era sempre la stessa, quindi c'era una continuità col passato, e quel titolo di questo disco 10 anni dopo non poteva essere contemplato se avessi messo Manchild. Perché Marco Sanchioni era 10 anni dopo, dieci anni dopo c'era Marco Sanchioni, non Manchild, non poteva esserci Manchild, quindi sono tornato al nome Marco Sanchioni tranquillamente, abbandonando il Manchild, che però ho voluto salvare nel CD come etichetta simbolica, esatto. Anche perché poi c'è una canzone che chiude l'album, che è la canzone dell'uomo bambino, che guarda caso riprende un po' questa idea del Manchild. Siamo tutti un po' Manchild, siamo tutti un po' uomini e bambini allo stesso tempo, siamo un po' costretti dal mondo a essere a volte forzatamente adulti, ma c'è il bambino che comunque vive, dorme, ma vive sicuramente dentro ognuno di noi. All'epoca di Manchild ti sei imbattuto splendidamente su Jeff Buckley. Su Jeff Buckley, sì, esatto, nel 2009 questo Jeff Buckley tributo è andato in onda, diciamo così, al Velvet. Di Rimini, locale famosissimo. E ci sono anche dei contributi filmati su YouTube, se li andate a cercare. E sì, è stata una bella cosa. Diciamo che Jeff Buckley non è stato mai profondamente sotto il profilo artistico dentro le mie corde. Sulle tue corde. Chi organizzava quel tributo mi ha comunque invitato molto, molto volentieri a questo tributo di Jeff Buckley, e quindi ho partecipato, mi sono riguardato bene le canzoni, ho fatto delle cover anche, che la cosa bella di Jeff Buckley è sempre stata questa, secondo me, quella di riprendere delle cover ma in realtà farsele sue, cioè Alleluia, certo. Che di Leonard Cohen è una canzone di fatto diventata di Jeff Buckley, certo. Brano straordinario, è la stessa cosa che secondo me, magari con un effetto minore forse perché è meno famoso, è anche la cover di Bob Dylan che io reinterpreto, Shelby Released, e anche lì nella sua interpretazione Buckley è eccezionale, soprattutto nella versione radiofonica, non so se l'avete sentita, che è bellissima, invito tutti ad andarla a ascoltare, andatela a cercare su YouTube. Lui praticamente ha la band dentro lo studio di radiofonico come noi in questo momento, io e Simo, ma lui chiama da viene chiamato via telefono e lui la canta da casa al telefono e il gruppo suona in studio. Cosa eccezionale, andatela a cercare questa versione perché è davvero molto bella. Potremmo provarla con un ospite questa soluzione. È vero. Vabbè, se proprio... perché no? Allora, ci ascoltiamo ancora qualcosa live, questa volta avete preso di mira i comunisti? No. Ma non lo so, cioè, no, ma è una mia, no, è una canzone che non mette d'accordo in realtà nessuno. Quando la faccio ascoltare mi odiano a destra e a sinistra, quindi non, diciamo, alcuni l'hanno definita gaberiana questa canzone. Bene, allora l'ascoltiamo stando comodi al centro. Certo, al centro, stiamo al centro sempre. Comunista con la pancia, piena. Esatto. Marco Sanchioni, accompagnato da Simone Cardinetti a Blu Radio Veneto. La mia opinione ti stimola a darmi un'etichetta. Tu non parli, tu non sei in vena. Io sono un comunista con la pancia piena. Io sono un comunista con la pancia piena. La mia storia di contraddizioni, comunque ricca e densa di emozioni. Non capisco perché le idee che ho debbano corrispondere a povertà. Io sono un comunista con la pancia piena. Io sono un comunista con la pancia piena. Un verde, un progressista con la pancia piena. Di sinistra, ma con la pancia piena. Spirito ricco, ricca materia. Questa è la mia vita. La mia coscienza è una candela accesa per il mondo, ma spendo energie per sopravvivere. Mi espongo a maligni. Sento responsabilità. Con un soldo, un lavavetri, poi penso un intendabile che potrebbe fare neanche il tempo di poter sognare, di poter amare. Se dal tuo punto di vista è una scelta comoda il rischio di contraddizione, ti dico io, non è un posto in prima classe. Non è un posto in prima classe. Io sono un comunista con la pancia piena. Io sono un comunista con la pancia piena. Un verde, un progressista con la pancia piena. Comunque di sinistra, ma con la pancia piena. Maoista, antifascista con la pancia piena. Pancia piena, un fondamentalista con la pancia piena. Io sono un comunista con la pancia piena, con la pancia piena, con la pancia piena. Blu Radio Veneto. Blu Time. Blu Time. Blu Time Live. Blu Time. Live. Marco Sanchioni, 10 anni dopo, con questo comunista con la pancia piena. Sì, ascoltando attentamente il testo abbiamo capito che non era solamente da una parte la pancia piena, ma chiunque sta su poi ha sempre la pancia piena, a scapito poi di altri. Sì, ma questa sì. È la legge della politica. Eh beh, che, la legge penso, forse del mondo. Penso nel corso dei secoli ancora non si è mai potuta cambiare. No. Nemmeno con una rivoluzione, colpo di Stato, altre cose. No, che no. Poi... è così. Ma credo volte... che tutte le rivoluzioni, tutto sommato, a pensarci, sono solo gattopardiane. Cambiare tutto per non cambiare nulla. Sì. Musicalmente no, hai cambiato qui stasera in questo momento, perché hai dato la versione acustica molto però mossa, molto movimentata, con molto pathos, con molta energia. Fra te e Simone, sì. Stasera abbiamo due chitarre acustiche, però te vorrei essere assolutamente elettriche in questo momento. Sì, beh, questo è un brano che ha una vena acustica, in realtà nasce come brano acustico. Però poi si sviluppa dal vivo qui con una band da sì, un certo dal peso. Dal vivo ha sicuramente un suo impatto, chiaramente, perché il pathos che crea e ciò che dice probabilmente, anzi sicuramente ha bisogno di quel sostegno, di quel suono. Questo rimbalzo è molto bello, il rimbalzo continuo, è quello bello, siccome il progetto dal punto di vista musicale, questo continuo rincorrersi, questo è fondamentale per dare stimolo a chi lo ascolta anche, secondo me. Sì, certo, sicuramente ed è la giusta ambientazione per il testo che è questa canzone, ecco. Sì, Marco, chi legge di te, che vuole sapere qualche notizia in più, ricordiamo marcosanchioni.it, il sito di riferimento, però si scrive anche di Velvet Underground, ancora bello. Non li abbiamo citati, certo. Ma sappiamo adesso... Oddio, scusate, no, Mara Flavio c'è la maglietta, vedi, c'è la maglietta, quella famosa banana di Andy Warhol. È una maglietta che mi sono comprato ad un concerto di Lou Reed l'anno scorso a... Sogliano su Rubicone vicino Rimini, bella serata, grande concerto, Lou Reed fantastico, grandissimo. Si parla anche di Velvet Underground, diciamo che i Velvet Underground li ho assorbiti di rimbalzo da altri gruppi probabilmente, anche se poi conosco i Velvet, i Rem su tutti, grandi fautori di cover dei Velvet Underground come There She Goes Again, Pale Blue Eyes e altre dal vivo. E beh sì, comunque sai, i Velvet sono maestri per tanti gruppi venuti dopo e in qualche modo hanno colpito anche me. Ecco. Qual è la canzone che ti ha colpito di più? Dei Velvet Underground? Sì. Ma non te lo saprei dire. Periodo Nico o dopo? Ma io, beh, il primo per me il periodo è Nico, allora. Sì, periodo Nico, sì. Direi Femme Fatale, se dovessi proprio scegliere. E se ti dico Pale Blue Eyes? Pale Blue Eyes è dal terzo album ed è una cosa che ho, un brano che ho fatto anche io, tra l'altro, Pale Blue Eyes. Vedi. E la trovate su YouTube, sì, è entrata a far parte di una compilation dedicata a Lou Reed e Velvet Underground del 2004 su un sito che non so se esiste ancora, che è musicboo.it, sì. Fece questa compilation scaricabile online con vari artisti appunto indie rock italiani e c'è anche la mia Pale Blue Eyes che ho fatto in maniera molto folk, direi, perché ho utilizzato il mandolino che nel finale in mezzo insomma si ritrovano. Tra le altre cose è da dire che questa canzone ha gli stessi anni tuoi. Pale Blue Eyes, sì, è del 69. Ecco, certo. Bene. Certo, sì. Proprio. Quindi è passato un po' di tempo, però è sempre molto, molto fresca. Grande, no? Grande pezzo, una grande, sì, grande interpretazione, canzone, certo. Grande canzone. E il dualismo fra John Cale e Lou Reed c'è sempre stato. Sì, anche se poi insieme hanno fatto quel disco splendido che sono su Trella, quindi certo. Non è che... Però vedi, le baruffe, i ritorni, le baruffe e i ritorni sono sempre state fra loro due. Cioè, due geni coesistevano perché qualcuno diceva c'era Nico che li tirava, sì, uno esatto, da una parte uno dall'altra, poi andata a sede Nico il giocattolo in esatto. Senso positivo si è rotto, si è poi, rotto, poi sì. Si è preso Lou Reed la responsabilità di tutto e chiaramente è andata così. E vabbè, quelli sono i casi della vita. Certo. E per loro è stato l'ultimo happy hour. Esatto. E allora perché non inserire anche questa canzone sempre dal lavoro di Marco Sanchioni? Si intitola proprio L'ultimo happy hour e ci ascoltiamo da 10 anni dopo. Il gelo della vostra eleganza non non potrà mai compensare la morte che avete nel cuore, un feretro inciso nell'anima. Siete sofferenza anestetizzata da profumi, da giacche firmate e gonne corte e bigiotteria più o meno di valore. Il gelo della vostra eleganza non potrà mai simulare quello che credete fortemente di rappresentare, la parte migliore del mondo. E non si confronta e non si discute se l'ignoranza è in buona salute. Siete le parole dette mai vissute, frasi vuote stanche e già perdute. La sincerità, io non sento intorno la sincerità, è solo un contorno. Potrà mai generare germi di luce e ombre di cuore e briciole presunte d'amore. Siete l'apparenza, siete la parvenza, siete l'arroganza dell'evanescenza, siete avvilimento, siete lo sgomento, siete il mio pensiero perduto nel vento. Io non sento intorno la sincerità, è solo un contorno di opportunità per vivere un giorno di celebrità, ma senza ritorno. E questo è l'ultimo Happy Hour, a cantarlo è Marco Sanchioni. 10 anni dopo si intitola il suo nuovo lavoro e Marco è qui con noi per parlarne, ancora anche con il suo grande amico chitarrista Simone Cardinetti, che abbiamo ascoltato prima anche nelle canzoni acustiche. Ancora non ci fermiamo qui all'interno di Blue Time Live, perché abbiamo poco tempo ma ancora tante cose da conoscere di Marco Sanchioni. Allora, l'ultimo Happy Hour, a cosa è dedicato, Marco? L'ho scritta dopo aver partecipato a un Happy Hour in cui era anche inglobato un compleanno di una mia amica in un locale di Fano, e niente, questa del 2003, e ricordo che così non mi piaceva stare lì, quindi una volta tornato a casa scrissi questa canzone quasi di getto e andò. Sì, perché molte volte anche negli happy hour c'è qualcuno che sta per i fatti suoi molto meno happy rispetto all'hour, no? Beh, forse quello sono io. Perché, appunto, è, insomma, tutto questo ambiente non mi piacque, mi arrivò addosso in maniera non così particolarmente felice, quindi scrissi la canzone. Per me fu l'ultima happy hour, perché non ricordo di averne fatti altri all'epoca. Una liberazione. Esatto, esatto, tanto per riconoscere ciò che mi piace e ciò che no. Okay. Quindi. Benissimo, 10 anni dopo Marco Sanchioni, questo disco, ricordiamo anche dove è possibile acquistarlo, come fare per entrare in possesso. Sì. Su iTunes, io l'ho messo, dovrebbe esserci, dico dovrebbe perché a volte questi tramite americani sono non così efficienti, oppure contattatemi direttamente sul sito e lo avrete tramite me, perché adesso la distribuzione non c'è. Diciamo, ecco. Le date? Qualche data? Dunque, un paio di date, ne dico due. Con Simone suoneremo il 25 di novembre al Contestaccio di Roma, e poi a dicembre abbiamo anche una data a Pesaro, ma è ancora da definire, quindi ve lo faremo sapere. Benissimo, allora ancora spazio alla musica acustica, questa volta un pezzo che con l'album... Non c'entra niente perché è nuovo, è completamente nuovo. Allora ce l'ascoltiamo, vuoi presentarlo prima? Sì, si intitola Cielo di Blue Jeans. Chiedi tempo a te stesso, chiacchierando silenzioso, fare confusione un poco, rimettendo tutto a posto, non sapere niente di te, non sapere più niente, non avere niente per te, tua presenza solamente, voglio il sole battere qui, voglio un cielo di blu jeans, il mio sole battere qui, dentro un cielo di blu jeans. E quando mai ti ho incontrata, quando mai ti ho vissuta, quando mai ti ho cercata, se poi dopo sei fuggita, perduti nel brusio del tempo, perduti nel fruscio di un sogno, perduti nell'oblio più intenso, che nella mente non ha senso. Voglio il sole battere qui, voglio un cielo di blue jeans, il tuo sole battere qui, nel mio cielo di blue Abbiamo ascoltato questo Cielo di Blue Jeans con Marco Sanchioni, non è 10 anni dopo, ma farà parte di un altro lavoro, no, prossimo avventuro. Sì, prossimo sicuramente. Mi raccomando, non aspettiamo troppo tempo. No, questa volta no, vi assicuro, ed è una promessa, sì? Non aspetterete 10 anni. Perfetto, quindi allora ce lo siamo legati, diciamo, al fazzoletto, tanto per ricordarsi che tra poco saremo ancora fortunati, avremo ancora ospite nei nostri studi Marco Sanchioni, sempre insieme a Simone Cardinetti. Che ti ha accompagnato anche su questo pezzo. È un pezzo molto libertatario, quindi questo viaggio in cielo di Blue Jeans. Blue Jeans è l'aspetto della libertà, l'on the road, secondo me. On the road, ma non lo so, è... Io lo vedo così, l'ho sentito. Non, io sinceramente... Non l'avevi pensato. Non ho pensato una cosa del genere, ma non so neanche bene come sia nata questa canzone. Una di quelle canzoni nate dal mio punto di vista un po' come poteva nascere un quadro di Bacon. Mm-hmm. Bacon diceva che quando lui cominciava a scrivere i quadri, a dipingere i quadri e non sapeva bene cosa stava cominciando a fare. Questa canzone è nata più o meno così. È nata scrivendo delle frasi, ma non sapendo bene dove volevo arrivare. Poi è venuta fuori questa storia del cielo di Blue Jeans, che è un ideale cielo fatto a tessuto. Se vuoi, tocca anche un po' l'aspetto della modernità del nostro tempo, no? Il Blue Jeans. E mi è piaciuto, l'ho tenuto, tutto qua. Benissimo, facciamo 7 anni indietro. Nel 2005 c'era un contributo a Lucio Battisti, sì. e tu hai scelto una canzone per partecipare a questo tributo, Non è Francesca. Non è Francesca. Come hai vissuto questa esperienza cantando la musica del grande Lucio? Bene, bene, bene, perché quella canzone l'ho voluta, insomma, portarla dentro quella che è la mia sensibilità. E la scelta è stata molto, molto semplice, perché sinceramente di Battisti conosco ben poco, cioè, o meglio, ne conosco tante di canzoni, perché voglio dire, Battisti, sì, in Italia è conosciuto da chiunque, credo, ma... Poi tu sei di Fano è vicino alla spiaggia porta Falò porta chitarrista ecco, porta gente, e si canta Lucio Battisti. Esatto, Lucio Battisti è insomma da Mare Nero in poi, voglio dire, sì, si canta... Tra le poche che sapevo risuonare, forse l'unica, no, l'unica forse no, ma c'è questa Non è Francesca che mi veniva molto bene, e l'idea di rifarla elettrica mi intrigava, e quindi l'ho fatta elettrica. Che era stata scritta per i Bisonti all'inizio, sì, per i Bisonti, e poi l'ha fatta la Formula 3. Però. Sì, sì, sì, sì. La Formula 3 la porta elettrica ancora avanti come, certo, un grande, cioè, cavallo come di icona, battaglia. Come icona, no? Esatto. Sì, quindi Alberto Radius, Tony Cicco, Lorenzi la portano avanti ancora come fosse loro. Ah, sì, sì, assolutamente. Dopo questo folle sentimento c'è sempre il Non è Francesca. Allora Marco, ci ascoltiamo un altro pezzo da disco, sempre da 10 anni dopo. Questa volta tocca a cosa? Vediamo un attimino nella scaletta. C'è quello che fa male. Quello che fa male, eccola qua. Allora ce l'ascoltiamo qui a Blu Radio Veneto. Quello che fa male è ciò che non riesco a dirti. Non è sempre uguale se poi rischio di ferirti. Quello che fa male è lo strascico, il dolore che vuoi liberare. Dentro senti che si muore, tu sei l'unico dottore. Quello che fa male, la mancata discrezione, l'attimo casuale che poi tronca un'emozione. Quello che fa male è l'azione trattenuta, l'attimo ideale, l'occasione della vita. Quando perdi la partita, la mia anima sta affogando come un verme dentro il fango, e mi scavo il mio rifugio perché devo stare al caldo. Mi trattengo stretto, perdo la mia direzione. Il mio guscio è solido e non consente ribellione. Quello che fa male è capirsi troppo tardi, se quando vuoi parlare lo capisci dagli sguardi. Quello che fa male, la paura che hai di dentro, quando vuoi giocare senza ridere col vento, perché tu vuoi fare centro. Oh. l'indifferenza la mia che mi arrende. Ma quello che fa male è ciò che non riesco a dirti, non è sempre uguale, so che rischio di ferirti. Quello che fa male è un amore che trattengo, che non so donare, mi rinchiudo, resto stanco, c'è tuo cuore nel mio fango. Quello che fa male, Marco Sanchioni dal suo ultimo lavoro che si intitola 10 anni dopo, un po' un tema dell'amore che riprende, però l'amore che manca e si dà sfogo proprio al proprio malessere. Ma cosa c'è di meglio per dar sfogo se non scrivere, scrivere, scrivere canzoni invece che affogare? Vero Marco? Quello che faccio. Sì. Io ho continuato a scrivere canzoni probabilmente proprio per scaricare quello che fa male. Proprio perché scrivere canzoni può diventare una terapia per chi lo sa fare, per chi ha voglia di farlo, per chi cerca di farlo nella maniera più consona a se stesso. E quello che fa male è una canzone che parla di ciò che fa male non solo nelle relazioni amorose, ma anche nelle relazioni amichevoli, nella sincerità e nella schiettezza che dovrebbe esserci nei rapporti umani fra di noi. E spesso e volentieri tenersi le cose o dirle fa comunque male, e in questa canzone ho tentato di parlare di questo. Una domanda a Simone Cardinetti, sì, che ti ha accompagnato in questa serata. Com'è suonare con Marco? Ah, piacevolissimo, perché lui c'ha questa enfasi sempre nel modo di cantare i suoi pezzi, che comunque conquista chi lo guarda, chi lo sente, quindi è sicuramente una cosa piacevole, bella, mi piace. Lo dice uno che di palchi ne ha solcati diversi, quindi esperienze a mille, come ricordava anche Marco. Allora, io dovrei dire che il tempo è quasi scaduto, però ancora due parole per Marco Sanchioni e questo suo ultimo lavoro. Due parole che riferiscono a quello che è l'ultimo brano che andremo a ascoltare in versione live per salutarci, sì, e che è il mio Mangiadischi, dove c'è un ritorno alla gioventù, un ritorno all'infanzia, direi. Sì. Sì, all'infanzia. Si parla degli anni 70, si parla di un episodio realmente accaduto nella mia vita in cui la maestra dalla prima elementare, io dalla seconda in poi ho avuto un'altra maestra, adesso ci sono più maestre, credo, all'epoca ancora ce n'era una sola. Sì. Io ho avuto una maestra in prima elementare e una maestra dalla seconda alla quinta. Quella di prima elementare mi fece questo sgarbetto qua, io amavo anche portare i 45 giri a scuola. Quando ancora mi piaceva, ancora mi piace per carità, un cantante francese, mia nonna viveva a Parigi, l'andava a trovare e c'era questo cantante francese chiamato Claude François. Tra le altre cose, ecco, ho visto che hai fatto la fotografia del disco dei 45 giri di C'est lui qui reste. C'est lui qui reste, è vero. Ed è proprio fotografato all'interno del tuo booklet. È un mio singolo che ho dato al grafico per farlo inserire nella grafica appunto complessiva dell'album. L'etichetta Discflash. Discflash era un'etichetta, sì, diciamo privata, tra virgolette, di Claude François. François, per intenderci, è quello che ha scritto My Way. My Way, sì. Ha scritto Comme d'habitude en français, e poi My Way è diventata nell'interpretazione, prima credo di Polanco e poi dopo del famoso Frank Sinatra. Frank Sinatra. Ed è anche colui che ha scritto Le Téléphone Pleure, che poi è diventato Piange il telefono. Sì. nella versione di Domenico Modugno. Esatto. E niente, quindi portando questi 45 giri lei storse il naso. Poi un giorno quando fece, diede questo pensierino, fate un giocattolo, no? Parlate di un giocattolo, io parlai del mio mangiadischi. E lei mi disse no, lo devi rifare. Per me fu una cosa tipo Francesco Tricarico, una cosa del genere. Non sto a ripetere il testo perché non sono cavoli. Sì, sì, ma tanto per ricordare, buongiorno, buongiorno. Esatto, sono, io sono Francesco, è una cosa del genere. Poi ha regalato realtà, parole. Il trauma riportato in quella canzone è ben altro. Ma sì, sì, sì, sì, sì. E allora niente, quindi quando nel 2004 scrissi questa canzone mi ritornò in mente questo episodio che andava assolutamente scritto secondo me in un brano, e lo feci, e feci questa canzone che secondo me andava ovviamente inclusa in questo CD. Il mangia dischi, è piaciuta moltissimo. Il mangia dischi ce l'hai ancora da in soffitta? Sì, credo che sia nella soffitta dei miei, sì. I 45 giri, quei 45 giri che giravano nel mangiadischi, sono a casa, alcuni sono a casa mia, altri da mia madre, ma di mangiadischi ne ho avuti più di uno in realtà, perché poi li rompevo sempre, mi cadevano sempre, uno addirittura una volta si squagliò sotto il sole. Ah, sì. Perfetto. Perché si portava certo. Il mangiadischi, no? Sì. E i dischi si storcevano tutti, i mangiadischi sotto il sole facevano tutte, quindi piangevo. Poi si sbeccavano i 45 giri, ma manco si spingevano dentro, sempre nel solito punto. Sì, tac. Esatto. E vabbè, sono belle storie da raccontare. A me è anche capitato con un mix, maxi singolo, a dire la verità, dei Ride, l'ho dovuto ricomprare. Purtroppo. Sì, vabbè, comunque. Comunque ricordiamo che in quel periodo chi andava per la maggiore era Ramaya. Ramaya, Kukuramaya, ma c'era sì, anche sì. Kung Fu Fighting, Kung Fu Fighting, c'era, sì, gli anni 70 erano questi, no? Pure sì. Sylvester, chi c'era? Sì, sì, c'era sì. Ti you amo di Umberto Tozzi. Quello c'è sempre. Quello c'è sempre, quello c'è sempre. Quello c'è sempre. Vabbè, allora, abbiamo ricordato il mangiadischi, il mio mangiadischi, si intitola il pezzo che andremo ad ascoltare adesso, e che fare? Salutiamo Marco Sanchioni, salutiamo anche Simone Cardinetti, e grazie per essere venuti qui dalla vostra amatissima Fano. Grazie a voi, davvero di cuore, stato piacevolissimo. Allora, 10 anni dopo, ricordiamo che è disponibile anche su internet, basta entrare anche semplicemente nel sito di marcosanchioni.it per entrare in possesso del vostro singolo. Ricordiamo ancora una volta che questa trasmissione sarà postata nei nostri archivi sonori, così per ascoltare anche in versione acustica le performance di Marco assieme a Simone. E basta, abbiamo detto tutto. Sì, mi trovate anche su Facebook e su Twitter. E anche su YouTube. Benissimo, allora che fare? Andare in cerca sempre di più notizie relative a Marco Sanchioni e ai suoi lavori. Allora vi lasciamo i microfoni aperti, ci dedicate a quest'ultima canzone. Noi salutiamo i nostri ascoltatori. Quindi da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara, il solito grande e caloroso ciao, buona serata a tutti. Vi lasciamo con Marco Sanchioni e con Simone Cardinetti per questa ultima, il mio mangiadischi. Grazie ancora ragazzi, buon rientro. Grazie, ciao. Lo ricordo così bene quando ci giocavo, il mio mangiadischi rotto io mi divertivo, plastica piegata al sole, valigetta musicale, floppy nero in vinile, compagnia attorno, e dischi un po' francesi, alcuni inglesi ed italiani, suonati allegramente stretti. Delle sere spensierate e di cene consumate in casa coi parenti. Un giorno la maestra dice compito per casa, un pensierino su un giocattolo che amate tanto, il mio mangiadischi, il mio balocco preferito, non so se è consentito ma io parlerò di lui, ma che non va bene tu lo rifarai da capo, parlando di un giocattolo come fan tutti gli altri, ci rimango un po' stordito, mio silenzio impietrito, anzi lacrime di sangue che non scorderò. Bassista. colorato, le infilzava lo strumento dritto dentro il cuore. Povero il mio mangiadischi, non ti han compreso, anima di plastica anche tu ti sei arreso. Siedi polveroso e spento, quattro mura di cemento, in soffitta il tuo lamento, chi lo sente più? Tecnologie imponenti, su di noi già deciso, la tenerezza che ho per te, lo sai, non è un sorriso. Sei fratello del mio tempo, stretto forte nel rimpianto, come il vecchio carosello che non torna più. Blue time.